Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e grazie per essere a ascoltare le riflessioni che provengono da questa emittente e grazie ancora di più se vorrete continuare a pensare a quello che noi stamattina argomentiamo e vorrete esprimere i vostri pareri su quello che stamattina viene detto o su quello che stamani vi rifrulla nella testa dopo aver ascoltato le parole del relatore che è Pasquale. Allora, una problematica comune al benessere della società di oggi è quella di una buona alimentazione, perché indipendentemente da quanto hanno detto i filosofi, i saggi, noi tutti sappiamo che ognuno di noi è sicuramente quello che mangia. L'uomo è quello che mangia. Poi c'entra di mezzo il pensiero, c'entra di mezzo l'emotività, ma se noi mangiamo cibi adeguati allo sviluppo e al mantenimento delle capacità del corpo, vivremo o viviamo una buona vita. Se invece ignoriamo quello che mangiamo e introduciamo, ingurgitiamo un po' di tutto, sicuramente la nostra salute in breve tempo e col passare del tempo entrerà in crisi. Allora ecco che stamani io vorrei esprimere alcuni pensieri sulla produzione dell'alimentazione. Ovviamente la produzione dell'alimentazione è l'agricoltura, anche la bistecca viene dall'agricoltura, ma noi principalmente analizziamo l'agricoltura nel senso dei prodotti che vengono dalla terra, dall'insalata, all'olio, al grano turco, a tutti quegli alimenti che consumiamo ogni giorno o spesso. Fondamentalmente oggi ci sono tre tipi di agricoltura. C'è l'agricoltura classica che l'uomo ha scoperto sicuramente da centinaia di anni e è quell'agricoltura che utilizza i prodotti chimici per far arrivare nelle piante, dalla quercia all'insalata, per far arrivare nelle piante le sostanze nutritive che a quella pianta servono. Allora, se noi abbiamo una bella distesa di insalata e la nutriamo con un nitrato, che è un prodotto chimico, è sicuro che quell'insalata velocissimamente cresce e viene su anche tenera, perché cresce veloce. Noi sappiamo che i nitriti e i nitrati non sono ottimali per la nostra salute, però nell'agricoltura classica i prodotti chimici, ora io utilizzo il nome di questi due prodotti, ma si allarga all'infinito, i prodotti chimici fanno riuscire velocemente la produzione di un prodotto alimentare agricolo. Questa è l'agricoltura classica. Poi c'è l'agricoltura biologica che dice le piante giustamente hanno bisogno di nutrimento e gli dobbiamo dare il nutrimento migliore per loro che sia meno invasivo sulla nostra qualità della salute. E l'agricoltura biologica non utilizza prodotti chimici di sintesi, cioè un agricoltore biologico non utilizzerà mai il nitrato che fa venire l'insalata bella e tenera, ma utilizzerà il limite tra i prodotti chimici, il solfato di rame per difendere le piante da dei parassiti o da delle muffe. Ma il solfato di rame, che è un prodotto chimico, è un elemento di base, non è una preparazione complessa. Quindi già l'agricoltura biologica utilizza del materiale che migliora la quantità, la qualità dell'humus. L'humus sarebbe quella parte della terra che ha le caratteristiche necessarie per far sviluppare oppure per far sopravvivere un prodotto alimentare. Si parla degli alimentari, insalata per intendersi, il radicchio, il sedano, il finocchio, le cicerche e compagnia bella, ok? Poi c'è un altro tipo ancora di agricoltura e si chiama agricoltura biodinamica. È un'agricoltura che è legata a una concezione generale della vita dell'uomo, cioè a una concezione intellettuale e fisica dell'essere umano. Il fondatore di questo pensiero biodinamico è un pensatore austriaco di fine 1800 che si chiamava Rudolf Steiner. Questo signore fondamentalmente dice che l'essere umano e i viventi con cui noi siamo a contatto hanno bisogno più che delle energie chimiche o delle energie fisiologiche, hanno bisogno di energia in genere con la lettera maiuscola, nel senso di qualcosa indispensabile, energia che permette di ben svilupparsi e di produrre, nel caso degli alimenti, elementi molto sani. Cosa fa l'agricoltura biodinamica? Prepara appunto questo fondamentale che è l'humus, dove poi si svilupperanno le piante, le piantine, il finocchio, il ciliegio. Lo prepara in maniera da non fornire nessun elemento chimico nuovo, se non quelli della terra, ma fornendo energia che appartiene all'universo, fornendo energia a quell'humus, da cui poi le piante ivi inserite prenderanno quell'energia disponibile che a loro serve per crescere. Per esempio, vi voglio fare un esempio di quello che non è energia e agricoltura biodinamica. Se voi andate ad acquistare una piantina di insalata in un vasetto, no? Quelle che poi si trapiantano in terra e vengono belle bellissime, appena la togliete dal vasetto, vedete che tutto lo spazio che è nel vasetto non è occupato dalla terra, ma è occupato dalle radici di questa piccola piantina di insalata o di altro prodotto, perché nella fase iniziale il produttore non si è interessato al benessere della pianta, ma allo sviluppo della capacità d'assorbimento delle sostanze chimiche che sono le radici nella pianta. Quindi, se voi andate ad acquistare una piantina di insalata da trapiantare e vedete che nel bicchierino non c'è più terra ma ci sono tutte radici, fatevi venire il dubbio di come è potuto avvenire quel fenomeno, cioè si sono mangiate tutta la terra e hanno prodotto soltanto radici. Ma torniamo a noi, alla biodinamica. Nella biodinamica ci sono due elementi importanti che sono nella natura delle cose, in questo caso della terra, e sono la mucca e il lombrico. Perché secondo questo modo di vedere la produzione di alimentazione, cioè come si fa a crescere sana, bella e nutriente la nostra piantina d'insalata, c'è l'idea che occorre prendere l'energia che è nell'ambiente e che non è solo quella della terra, ma che è quella anche che viene e che è condizionata dalla presenza degli astri in vari momenti dell'anno, del sole, della luna, è di prendere questa energia e trasformarla in maniera che sia disponibile ai nostri prodotti agricoli. Allora, la mucca cosa fa? La mucca mangia la sua erba, il suo fieno, i suoi fiori, poi li elabora attraverso il suo corpo e poi li defeca. Allora, si dice che questo processo, che avviene in maniera estremamente naturale, pensate alla mucca che bruca l'erba nel campo e alla digestione che viene fatta negli stomaci della mucca, che non sono influenzati da fattori esterni, ma dalla natura stessa dell'essere mucca, non possono subire condizionamenti esterni a quelli della natura della mucca, ma quello che la natura della mucca lo mangia, lo prende, lo trasforma in elemento energetico che adopera per i suoi muscoli e per le sue funzioni, lo riemette e ancora questo elemento contiene tantissima sostanza ricca di qualità energetica. Lo stesso fa il lombrico. Anche il lombrico mangia quelle cose che a lui servono mentre si muove sottoterra. Esattamente cosa mangia non lo so, ma penso che mangi delle piccole radici, forse qualche piccolo animaletto. Poi, se lo digerisce senza l'aiuto di nessuno, ma per sua natura, e poi quello che lui emette come feci sono considerato da tutti un ottimo concime per i prodotti che servono all'alimentazione umana. Perché questi due animali? Perché ambedue, non influenzati da fenomeni esterni controllati dall'essere umano o dalla scienza dell'umanità di oggi, perché i fenomeni che in loro si verificano non sono controllati né dall'essere umano né dalla scienza dell'umanità di oggi. Ci sono anche altri animali, ma questi due sono un po' il simbolo dell'arricchimento dell'humus che si utilizza per vitalizzare quella terra che sarà poi la produttrice dell'alimentazione umana. Un altro sistema che l'alimentazione e la cultura biodinamica utilizza per produrre elementi di alimentazione di qualità è utilizzare alcuni sistemi, dai humuli di compostaggio, per dirla in valtarnese, sono i humuli dove si produce attraverso il tempo e attraverso condizioni particolari si produce il letame e poi si utilizza per arricchire la terra. Per esempio, in questi humuli l'agricoltura biodinamica non solo ci mette gli elementi fondamentali, cioè quello che è il risultato della stalla, il risultato della raccolta dei residui alimentari del campo, ma ci mette anche delle sostanze caratteristiche in piccolissime quantità, tipo la camomilla, il tarassaco, la valeriana e altri prodotti, sono altri 6 o 7, che nella trasformazione del cumulo da elemento scomposito, cioè che non ha caratteristiche speciali, in un elemento composito, cioè in un elemento che ha acquisito caratteristiche nuove rispetto a quelli originali. Quindi la formazione di humuli con particolare caratteristica è un altro elemento nella produzione dell'agricoltura biodinamica. Per esempio, per arricchire poi la terra si producono dei preparati che a qualcuno possono far venire il sorriso sulle labbra. C'è per esempio un preparato che si chiama 500, che viene prodotto inserendo nei corni di un animale morto delle feci, quella che si dice la fatta del mondo vaccino, e nascondendo, sotterrando questi corni in alcuni periodi dell'anno, per alcuni mesi, che secondo i gestori dell'agricoltura biodinamica, stando sottoterra, acquisiscono caratteristiche particolari che serviranno poi nella concimazione del terreno su cui si va a impiantare la nostra piantina di insalata o di radicchio o il nostro ciliegio. Io non mi addentro su questo argomento perché è difficile e può anche, se non affrontato bene, diventare oggetto di ridicolezza. Però chi vuol saperne di più, su internet, se va a cercare il mondo della biodinamica, trova un monte di informazioni anche su questo argomento che danno soddisfazione anche intellettuale a chi vuol capire come funziona esattamente questa cosa. Come vi dicevo, questo preparato 500 viene dinamizzato prima dell'utilizzo. Dinamizzato vuol dire che si mescola con una quantità di acqua adeguata e si agita per circa un'ora. Dinamizzare vuol dire che bisogna fare in maniera che questo muovere il contenuto del recipiente dove c'è acqua e preparato 500 avvenga in maniera urtante, un po' si producano qualcosa come le onde sul mare, no? Una cosa è in mare liscio e l'acqua è sempre ferma e non succede niente, una cosa è in mare agitato dove le onde tutte le volte che urtano tra sé o urtano con la spiaggia oppure con gli scogli producono all'interno di loro stesse un fenomeno che non è uguale a quello che produce l'acqua che sta ferma. Una volta prodotti questi preparati si spandono sul territorio con i sistemi classici, o con gli irrigatori a pompa oppure con altri sistemi più semplici. E quindi il costo di preparazione del territorio dove si fa agricoltura biodinamica è bassissimo, perché questi prodotti, vi ho detto all'incirca come si creano, evidentemente costano molto poco. Un altro elemento ancora importante nell'agricoltura biodinamica, che si sta diffondendo anche all'agricoltura biologica e a quella classica, è il sovescio. Il sovescio significa seminare delle piante adeguate, farle crescere per un periodo adeguato. Adeguato vuol dire tutto e niente, ma non sono in grado in questo tempo limitato di dire il significato di ogni adeguatezza. Allora, adeguato vuol dire qualche settimana, qualche mese, così. Poi si taglia questo prato, queste piante che sono nate, cresciute, e si mescola, ma non in profondità, abbastanza in superficie, questo trinciato di piante che era quello che noi abbiamo seminato in maniera adeguata, e in questa maniera si aumenta la fertilità del terreno senza aggiungere prodotti chimici e, come dice la biodinamica, aggiungendo le energie che queste piante da noi scelte, da noi allevate, da noi tagliate si ritrovano una volta triturate sul terreno. Per esempio, chi ha un po' di passione per l'agricoltura provi a fare questo esperimento. È difficilissimo in un campo dove c'è la gramigna togliere questa pianta infestante. Infestante non vuol dire cattiva, vuol dire soltanto che si sviluppa in maniera irregolare. Però se c'è questa pianta infestante e altre piante che noi vorremmo farci crescere, la nostra piantina di insalata, il nostro finocchio, la nostra melanzana oppure qualcos'altro, avranno meno quantità di energia, di materiale da assorbire. Allora bisogna cercare di limitare il numero e la quantità delle infestanti quando si fa una semina di produzione. Come si fa a limitare le infestanti? Si prende diserbante selettivo, si butta al momento giusto sulle piante infestanti e queste seccano. È quanto di peggio si possa fare per la salute umana e per la salute della terra. Quindi no diserbanti. C'è un sistema abbastanza semplice. Come sappiamo che per mantenere la salute di alcune colture si adoperano degli insetti che contrastano altri insetti che danneggiano le colture, così per limitare le infestanti si può seminare nel terreno dove esse germogliano delle piante, ad esempio tutti i tipi di cicoria, dai radicchi a taglio, ai radicchio rosso, ai radicchio veneto, alla cicoria da taglio, tutti i tipi di cicoria che esistono sul mercato. E voi vedrete che l'anno dopo che avete fatto la semina di cicoria in un ambiente dove c'era gramigna, la gramigna non c'è più. È vero, è infestata dalla cicoria ora, quel fazzoletto, quello spazio di terra, però la cicoria è un elemento che per l'essere umano è importante nella propria alimentazione. Allora, anche la selezione, il diserbo di un territorio da cui si vuole ricavare qualità di alimentazione per l'alimentazione umana, si può fare o ricorrendo alla vecchia e invasiva chimica o ricorrendo alla zappetta del contadino, molto faticoso e quindi messa da parte oggi, o ricorrendo alle mescole di sementi adeguati che controllano le infestanti. Vi dico un'altra cosa ancora sulla biodinamica perché è importantissima e poi mi taccio. Nella biodinamica un elemento importante è la luna. Tutti quelli tra noi che seminano l'insalata o i finocchi o il cavolo sanno come è importante seminare nel periodo in cui la luna è giusta. Allora si acquista il sesto caio Bacelli, che non sto a spiegare perché chi conosce l'agricoltura lo conosce, si guarda quando c'è scritto che va bene seminare l'insalata, perché in quell'anno e quel giorno la luna è nella fase discendente o ascendente, e si semina e in genere si ottiene dei buoni risultati. La biodinamica osserva ancora un altro fenomeno che avviene nella luna e che non è sotto l'attenzione di tutti. Noi si sa, c'è la luna bella tonda, la luna piena, c'è il primo quarto, il secondo quarto, l'ultimo quarto, c'è la luna nera, no? Quando non si vede. Cosa significa questo qui? Significa che durante la notte, mentre noi stiamo a dormire, il nostro territorio è influenzato o da tanti raggi di luna che vengono dalla luna piena o da un po' meno che vengono dal primo quarto, eccetera. L'altro fenomeno che noi non osserviamo è che la luna, come tutti i pianeti e quindi come il Sole anche, c'ha un movimento di zenite, cioè quando ammettiamo che la luna nasca stasera alle 19 sull'orizzonte, d'inverno la luna rimane sopra l'orizzonte per un numero di gradi limitato, mentre durante l'estate sale fino a quasi 90 gradi, d'inverno ci rimane per un numero di gradi limitato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la luna nasce all'orizzonte e arriva dal nostro punto di vista fino all'altezza del primo cipresso, la quantità di luce che immette durante la notte, indipendentemente dalla sua fase di luminosità, sarà più o meno grande. Perché una cosa è se la luna dall'orizzonte sale fino a sopra la nostra testa, impiega tanto tempo, fornisce tanta luce, fornisce tanta energia. Un'altra cosa è se la luna nasce dall'orizzonte e arriva, diciamo, dal nostro punto di vista a 15 metri sull'orizzonte rispetto a noi, no? Cercate di capirmi, sono misure di riferimento queste qui, non misure tecniche. Allora, questo muoversi della luna verso lo zenite è un altro elemento dell'agricoltura biodinamica. Quando noi seminiamo con la luna piena e con la luna che va verso lo zenit più alto, avremo il miglior risultato nella nascita delle nostre piantine. Allora, non è che si vive di stupidate o di sensazioni venute da lontano, ma anche di osservazioni fatte in questo periodo e a noi contemporanee. L'agricoltura classica non è stupida, l'agricoltura biodinamica non è stupida, l'agricoltura biologica non è stupida. Ognuno deve fare le proprie riflessioni in riferimento alla propria salute e alla propria qualità di vita. Se volete ulteriori informazioni su questo argomento, vi ricordo, andate su internet, dove sull'agricoltura biodinamica trovate tante informazioni specifiche. E l'agricoltura biodinamica, come tutti i tipi di coltivazione, hanno un riferimento che si chiama marchio Demeter. Quando voi vedete un prodotto a marchio Demeter, che sia prodotto in Italia, in Spagna o in Argentina, significa che rispetta i principi della biodinamica. Spero di non essere stato più confusionario di quello che mi compete. E allora provate a cercare di capire quello che voglio comunicarvi, non tanto da un punto di vista scientifico, ma da un punto di vista emozionale e di qualità della vita. Vi saluto, buona giornata, buona serata, arrivederci alla prossima e arrivederci da Radio Big World.